Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, buona domenica, ben ritrovati. Prima puntata del mese di marzo e come da tradizione arriva la sventagliata di novità dal Salone dell'Auto di Ginevra. C'è chi ha parlato di un appuntamento in tono minore, c'è chi invece ha scritto, ha raccontato di un salone da piena ripresa del settore. Per chiarirci le idee, tra poco andremo a Ginevra anche per toccare con mano quella che è la situazione in riva al lago. Numero ricco di strade e motori da non perdere per gli appassionati di moto, di due ruote, perché parleremo tanto delle novità del settore motociclistico. Di solito il periodo di fine inverno, inizio primavera, regala delle sorprese interessanti per tutte le tasche. Oggi parliamo anche di sicurezza stradale portata sui banchi di scuola, quindi una storia che può insegnare parecchio. Pensate, il primo parcheggio realizzato interamente sott'acqua, e dove potevano costruirlo se non a Venezia? Ma noi partiamo da Ginevra. È iniziato giovedì, finirà domenica prossima il Salone dell'Auto di Ginevra. Lo abbiamo definito il più importante evento per l'auto in Europa. Ma che aria tira in riva al lago? Vogliamo sapere tutto e ci colleghiamo proprio con Ginevra e con il direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini. Buona domenica, direttore, ben trovato. Buona domenica a voi. Ma diciamo che tira un'aria di moderato ottimismo, nel senso che tutti fanno dichiarazioni di appunto ottimismo dicendo che comunque la crisi è passata. In realtà però si fa poi i conti con un mercato che in Europa e anche in Italia, come sappiamo bene, senza gli incentivi quest'anno sconterà un calo piuttosto importante. Quindi c'è da una parte l'idea che appunto il crollo che si temeva un anno fa non c'è stato, dall'altra che però per avere una guarigione completa si dovrà ancora aspettare molto tempo. Devo dire che lì si è vista un po' la differenza fra i gruppi che comunque anche negli anni bui hanno continuato a investire e quindi avevano prodotti nuovi, e quelli che invece hanno dovuto un po' più tirare la cinghia e che si accontentavano di avere degli stand un pochettino più in tono minore. Direttore, accompagnaci un po' per gli stand del Salone dell'Auto di Ginevra. Quali sono state, quali sono le protagoniste secondo te del salone, quelle che ti sono piaciute di più? Magari un due o tre esempi. Ma dunque due o tre, io direi sicuramente l'Audi A1 è una macchina molto interessante perché segna questa discesa in campo anche delle marche più cosiddette premium, le marche più prestigiose appunto nei segmenti piccoli, perché la 1 è una macchina che vuole fare concorrenza ad automobili, tanto per citare un modello italiano potremmo parlare della Mito, insomma, essendo un Audi che in questo momento è una casa particolarmente in salute, ovviamente stiamo parlando di un modello che potrebbe fare dei numeri veramente, veramente importanti. I prezzi ancora non sono stati detti, la macchina arriverà sostanzialmente in vendita, o meglio verrà consegnata dopo l'estate, ma la si potrà prenotare già prima ed è sicuramente una macchina interessante. Poi c'è questo tentativo della Nissan, anche questo molto ambizioso, di fare un SUV di piccole dimensioni, quindi un SUV che abbia praticamente le dimensioni di una macchina di cosiddetto segmento B, tipo la Punto, la 207, la Polo, eccetera, e che però abbia appunto il look da fuoristrada, la guida alta, e anche questo devo dire che è un esperimento molto interessante e che alla Nissan è già riuscita nel segmento superiore con la Qashqai. E poi c'è la Giulietta che finalmente segna il ritorno dell'Alfa Romeo con un modello nuovo, con una macchina che magari non è stupefacente dal punto di vista della stile, però è una macchina piuttosto ben piuttosto armoniosa, insomma, che evidentemente sconta un lavoro anche nel design piuttosto importante. L'esterno è stato fatto da Pininfarina, mentre sull'interno ha lavorato il centro stile Alfa Romeo, e lì è un, diciamo, un pochettino un antipasto di quello che verremo a sapere il 21 aprile prossimo, quando finalmente Sergio Marchionne dirà quali sono i programmi per la gamma futura di tutti i marchi del gruppo Fiat, che a questo punto, come sappiamo, include anche Chrysler, Dodge e Jeep, fino al 2014, quindi un orizzonte temporale piuttosto ampio, e lì capiremo quali sono le marche che hanno delle chance per andare avanti e, insomma, chi recuperare terreno, chi consolidarsi, e quali sono quelli invece su cui il gruppo torinese ha deciso magari di investire meno risorse. Direttore, si è parlato molto e si è scritto anche tanto sulla Ferrari iCars. Tu che sei un profondo conoscitore di Maranello, insomma, giochi in casa, cosa ne pensi? Ti è piaciuta? Ma devo dire che questa Ferrari verde mi ha lasciato un pochettino lì, nel senso che io credo che la Ferrari non abbia bisogno di dipingersi di verde per segnalare il fatto che ha in casa tutte le tecnologie e tutto il know-how per fare anche delle macchine che abbiano delle emissioni molto inferiori rispetto a quelle che abbiamo visto finora. Io credo che quello sia un pochettino un ballon d'essai, nel senso che la Ferrari appunto ha mostrato il fatto che anche questo lavoro che è stato fatto in Formula 1 con il CARS non è stato un lavoro buttato via, ma che sta lavorando per avere appunto anche una trazione elettrica che consente alle velocità più basse di appunto abbattere sia i consumi che le emissioni. Però credo che sia appunto un segnale di apertura di una pista che poi non darà i risultati, diciamo, in termini di gamma in vendita prima della, diciamo, metà di questo decennio che stiamo aprendo. A mio parere comunque la Ferrari ha anche gli strumenti per lavorare e abbattere i consumi e le emissioni delle macchine che ha già in produzione ora, lavorando sui motori a combustione interna tradizionali, e quindi credo che fosse un pochettino una scioccarda salone, un discorso interessante, ma penso che dalla Ferrari ci possiamo aspettare ben altro. Come sempre non manca la schiettezza nei commenti e nelle analisi di Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote, che era in collegamento con noi da Ginevra. Grazie direttore, buona Grazie domenica. A voi, buona domenica, arrivederci. È stato inaugurato a Venezia il primo parcheggio del mondo sotto il livello dell'acqua. È stato realizzato sull'isola nuova del Tronchetto. Si tratta di una struttura capace di ospitare più o meno un centinaio di auto. Ne parliamo insieme all'amministratore delegato della Ideal Park, l'azienda veneta che lo ha realizzato. Michele Stevan, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, è la prima volta al mondo, no, che un parcheggio viene realizzato sott'acqua, sotto il livello del mare. Come vi è venuta questa idea? Ma il parcheggio di Venezia è stato appunto realizzato sotto l'isola artificiale del Tronchetto di Venezia, che è un'isola artificiale che è stata realizzata intorno agli anni 60. Si tratta dell'unico esempio di autorimessa privata raggiungibile direttamente dalla terraferma. A 2 metri sotto il livello del mare, sotto un grande complesso direzionale, sono stati realizzati 100 box per auto di grandi dimensioni. Queste autorimesse sono a prova d'acqua alta e sono dotate di ogni comfort, come controllo accessi, telecamere a circuito chiuso e appunto parcheggi meccanizzati. I parcheggi meccanizzati consentono ai proprietari dei box di parcheggiare una seconda auto nel box sfruttandone l'altezza, che nel caso specifico è superiore ai 3,5 metri. Funzionamento molto semplice: tramite un apposito pannello di controllo è possibile decidere di far salire o scendere l'auto. Ovviamente per poter parcheggiare l'auto superiore bisogna prima spostare l'auto inferiore. Certo, ecco, ma poi magari torniamo anche su questo concetto del parcheggio in verticale, che è molto interessante, e cerchiamo di approfondirlo. Tornando al parcheggio del Tronchetto, l'idea di costruirlo sott'acqua è stata vostra oppure è stato il committente? Committente, che la richiesta di posti in macchina era notevole e hanno utilizzato questo spazio che si accede tramite una rampa sotto questo complesso direzionale, e hanno cercato di ottimizzare al massimo gli spazi perché avevano una grande richiesta di posti auto. Ma è stato più difficile realizzare un parcheggio, costruire un parcheggio sott'acqua rispetto ai parcheggi, diciamo, tradizionali? Sicuramente c'è bisogno di accorgimenti particolari proprio per il problema delle infiltrazioni rispetto a un parcheggio convenzionale in altra posizione. Quindi sono stati utilizzati anche dei materiali diversi, no? Sì, esattamente. Per l'isolamento soprattutto. Chiaramente, insomma, la curiosità nasce anche dal fatto che quindi è un modo intelligente per sfruttare uno spazio che di solito invece è inutilizzabile. In Italia, secondo lei, ci sono altri possibili location, definiamole così, per un parcheggio del genere? Potrebbe essere una soluzione da applicare altrove? Che ne so, immagino a Napoli piuttosto che dove c'è tanta acqua, piuttosto che a Palermo, ecco. Cioè, degli idee dei parcheggi sott'acqua possono essere esportati altrove? Attualmente i parcheggi del parco sono concentrati prevalentemente sul nord Italia. Abbiamo un'installazione analoga in un hotel di lusso in costruzione in provincia di Como per 64 posti auto, e con la stessa tecnologia lo scorso anno abbiamo realizzato anche il parcheggio del CSM presso il Consiglio Superiore della Magistratura a Roma. Lì però di acqua non c'è. No, problemi di acqua non c'erano, era più semplice lì l'opera civile. Senta, ma sott'acqua ci sono rischi o pericoli per le auto e per gli utenti? Non è che arriva l'acqua alta, appunto, si diceva, e porta via tutto, no? No, sono stati pensati degli appositi accorgimenti per evitare problematiche di questo tipo. Senta, in conclusione, dicevamo il parcheggio invertito, io l'ho definito in verticale, ma insomma il termine per capirci, cioè parcheggiare due auto una sopra l'altra. Sì. Quanto è diffuso in Italia e invece all'estero questo tipo di parcheggio? Il parcheggio verticale in Italia non è molto diffuso, purtroppo. Potenzialmente dovrebbe avere un ampio utilizzo per due motivi. Innanzitutto la totale mancanza di un numero sufficiente di posti auto e box in Italia e il costo degli stessi. Una recente indagine di iPark ha evidenziato come in Italia manchino appello oltre 450.000 posti auto. Inoltre, due anni fa abbiamo fatto un'indagine in 55 paesi al mondo dove è emerso che il costo dei porti auto in Italia è tra i primissimi al mondo, con valori che superano abbondantemente i 100.000 euro in diversi centri storici. Questo lo sappiamo. Quindi questi due valori dovrebbero far pensare a un mercato enorme. Invece ci sono due problemi principali. Il primo è la mentalità degli italiani, che è quello di concepire il box come una stanza supplementare in cui riporre più svariati oggetti, mentre nel box meccanizzato vi è spazio esclusivamente per l'auto. Per esempio in Germania invece il parcheggio meccanizzato è largamente diffuso e utilizzato. A Berlino prendere un ascensore convenzionale per persone e utilizzare un parcheggio meccanizzato è praticamente la stessa cosa. Il secondo problema che riscontriamo in Italia è proprio quello dei progettisti italiani che non conoscono molto queste tecnologie e di conseguenza non vengono proposte alla committenza. È proprio per questo motivo che anche l'Idel Park investe e presta molta attenzione alla comunicazione, in modo da divulgare i propri progetti. Ogni anno presentiamo i 2-3 progetti più significativi che abbiamo realizzato. Gli scorsi anni, per esempio, abbiamo presentato un progetto di un parcheggio invisibile realizzato in un cortile di un palazzo storico a Crema. Piuttosto che il parcheggio della roccia, l'abbiamo chiamato, che è un parcheggio in un'area ex di degrado di Verona, e quest'anno presenteremo un parcheggio molto singolare, un ex limonaia sul lago di Garda a Garniano. Insomma, c'è possibilità di sbizzarrirsi con la fantasia anche per in un settore delicato come quello del parcheggio. Allora, noi ringraziamo l'amministratore delegato di Idel Park, Michele Stevan, che è stato nostro ospite. Buon lavoro e a presto. Grazie. Seconda parte di Strade e Motori. Come sempre, adesso ascoltiamo tutte le news del mondo in movimento, le ultime notizie della settimana. Poi conosceremo le novità per le due ruote. Restate con noi. Ancora positivo il dato sulle immatricolazioni auto in febbraio. Le vetture nuove nel nostro paese sono state 200.560, con un aumento del 20,6% rispetto a 12 mesi fa. Un nuovo primato raggiunto ancora grazie agli incentivi del 2009, visto che le auto ordinate entro il 31 dicembre possono essere immatricolate entro il 31 marzo del 2010. Preoccupazione tra i produttori, invece, per le vendite di inizio anno. Senza gli incentivi del governo, infatti, il calo è considerato inevitabile. Sempre più severi i controlli dell'Euro NCAP. L'organismo internazionale che giudica il livello di sicurezza dei nuovi modelli di auto ha inasprito i criteri di giudizio. Per il 2010 solo la Toyota Verso ha superato a pieni voti i crash test e ha ottenuto il massimo della valutazione, le 5 stelle. 4 stelle invece per la Kia Venga, la Nissan Cube e la Seat Xeo. Ancora richiami questa settimana da alcune tra le principali case costruttrici di auto. La Nissan ha annunciato il richiamo di circa 540.000 veicoli nel mondo, compresi camioncini e minivan, per problemi legati al pedale del freno e all'indicatore del carburante. Problemi anche in General Motors, che ha annunciato il richiamo di 1.300.000 auto vendute negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, per problemi legati allo sterzo e alla tenuta di strada. Tra pochi giorni sarà primavera, anche se dal clima non si direbbe, non sembra, e torna allora la voglia di moto. Tutte le novità di questo momento così particolare con il direttore della rivista Motociclismo, Marco Riccardi, che è in collegamento con noi. Buona domenica, direttore. Buona domenica a te e anche a tutti gli ascoltatori. Ecco, direttore, volevo partire da un dato. In febbraio, moto che hanno registrato un calo delle immatricolazioni di circa il 7%. In qualche modo le moto hanno anticipato l'auto. Possiamo dire che senza incentivi è dura anche per le due ruote? Purtroppo è dura per le due ruote, come ovviamente per le auto, come lo sarà per le auto, anche se il febbraio dell'auto mi sembra che sia andato molto bene. In più abbiamo anche il fattore ambientale che ci ha veramente messo un pochino a tappeto, perché questi mesi, questo inverno è stato veramente troppo lungo anche per le motociclette, però ci aspettiamo un minimo di rincorsa subito dopo l'inizio di primavera. Direttore, veniamo un po' al fulcro di questa nostra chiacchierata di questa domenica. Le grandi case come si presentano a questa primavera? Quali sono le novità più appetibili che poi interessano anche chi va in concessionaria in questi giorni? Cosa vuoi segnalare? C'è il solito grande blocco tra le europee e le giapponesi. Le europee e le italiane in particolare si sono mosse molto bene. La Ducati ha questa nuova moto che si chiama Multistrada, che è una moto che coniuga quattro maniere di usare la motocicletta: per il turismo, per lo sportivo, per quello che va in città, addirittura anche per l'enduro, cioè quello che va in un fuoristrada leggero. Poi c'è MV che ha la sua splendido gioiello che è la MF4, che è una moto super sportiva, che è una vera icona della motocicletta per chi vuole andare in pista. Non ultima la BMW, che arriva con una moto super sportiva che è già al vertice della categoria. Noi abbiamo fatto recentemente come motociclismo una prova delle 9 super sportive più importanti oggi in vendita, e la BMW già al suo esordio ha sbaragliato le altre. Tra le giapponesi c'è un grande ritorno, che è quello della Yamaha Super Tenere, una moto che era un'icona del fuoristrada 20 anni fa e adesso ritorna. Ci aspettiamo grandi cose anche da una moto come quella. Un nome molto anni 80, no? Il Super Tenere era un mito per i ragazzi di quella generazione. Assolutamente. E poi, direttore? Poi quello che vediamo ancora, sicuramente, come ripeto, gli italiani si sono mosse, arriveranno delle moto in primavera che sono delle nude, cioè delle moto accessibili a molte. Aprilia per esempio ha una nuova motocicletta che si chiama Shiver, che è una moto d'ingresso, sono quelle che si chiamano le moto facili, insomma. Poi anche Yamaha ha una moto per chi vuole una moto facile, che è la FZ8, che arriverà anche lei in primavera. Sono tutti veicoli per chi inizia, diciamo. Bene, direttore, noi ti ringraziamo per la tua partecipazione qui a Strade e Motori. Ci sentiamo prestissimo, ovviamente. Grazie e buon lavoro a Marco Riccardi, direttore di motociclismo. Grazie a voi. La Fondazione ANIA per la sicurezza stradale ha iniziato una serie di incontri, di attività in giro per l'Italia con gli studenti delle scuole. Una bella iniziativa che si chiama La Scuola Ti Guida e che si concluderà la prossima settimana. Ne parliamo con Sandro Salvati, presidente della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, che ci ha raggiunto al telefono. Buona domenica, presidente. Buona domenica a voi e a tutti gli ascoltatori. Com'è nata l'idea di questo tour? Possiamo definirlo così, quasi come fosse il tour, come dire, di un grande cantante, invece si parla di sicurezza stradale. Quali sono le attività che svolgete? Ma grande cantante mi sembra un'espressione appropriata per sensibilizzare i giovani, infatti questo che cerchiamo di fare. Noi partiamo purtroppo da un fatto molto duro e molto crudo. La morte per incidente stradale è la prima causa di morte in assoluto per i giovani, è la terza dopo tumori e malattie cardiocircolatorie per gli adulti, ma è la prima in assoluto per i giovani. Da questo noi siamo partiti, tenendo presente che con tutti, ma in particolare con i giovani, il problema non si risolve con annunci, battute e cose del genere. Occorrono maggiori controlli, innanzitutto, maggiori controlli sulle strade, e dall'altro la prevenzione. La prevenzione ovviamente porta all'educazione dei nostri giovani, quindi stiamo lavorando in collaborazione forte con dei partner come AISCAT e Autostrade per l'Italia, entriamo nelle scuole e stiamo facendo questo giro d'Italia, come giustamente lei lo ha chiamato, per sensibilizzare i giovani e insegnare concretamente delle tecniche di guida. Quali sono le attività, appunto, che svolgete durante questi incontri, Presidente? Ci sono due tipi di attività. Gli studenti dei primi anni che stanno per prendere la patente per il ciclomotore, che è un veicolo pericolosissimo, lo dico alle famiglie, i nostri ragazzi non sanno in qualche caso stare nemmeno in piedi sul ciclomotore. Per prendere questo patentino quindi noi gli insegniamo come si usa il ciclomotore, e poi dall'altra parte gli studenti invece che stanno per prendere la patente B, quindi le quarte e le quinte superiori o che sono patentati da poco. Seguono la lezione teorica tenuta da noi, poi hanno, visto che sono ragazzi, quindi technology, ricevono un CD-ROM con tutte le istruzioni per prepararsi agli esami. Approfittiamo, perché apro una parentesi importante, in queste occasioni approfittiamo anche per sensibilizzarli sulla guida in stato di ebbrezza. Tema, se volete, lo affrontiamo in un altro momento, tema anche questo drammatico, lo sappiamo. Noi quello che vogliamo dire ai giovani ragazzi: usate il principio dei vostri coetanei, che magari bevono anche di più in Inghilterra, in Germania, in Svezia. Andate in 5 in discoteca, 4 bevono quello che vogliono, il quinto si sacrifica per quella serata e riporta tutti a casa. È il principio: se bevi non guidi, se guidi non bevi. Dopodiché loro hanno anche, soprattutto i ragazzi ovviamente di quarta e di quinta, quelli della patente delle quattro ruote, noi mettiamo a disposizione un simulatore di guida che ha un software molto molto avanzato, per che è posto su dei truck, dei nostri camion attrezzati. Presidente, che tipo di risposta avete così trovato nei ragazzi? Ma direi che è la conferma di quanto si può fare e la conferma di quanto ci sia da fare. Lei pensi, siamo stati toccati da... Cioè, i ragazzi hanno delle reazioni anche spontanee poi alla fine, no? Non stanno lì a bleffare con i nostri istruttori, che tra l'altro appartengono alle più avanzate scuole di guida sicura del paese. Non faccio pubblicità, lo meriterebbero, ma sono veramente degli istruttori molto molto molto tecnici. Gli insegnano per esempio a come evitare ostacoli improvvisi, o il famoso tema della pozzanghera d'acqua su quale vai a finire, o i cambi di carico dell'autovettura quando freni. La battuta dei ragazzi sa qual è? Ah, certo, se l'avessi saputo prima, perché evidentemente hanno già da soli o con coetanei sperimentato che questo è stato un problema. Presidente, per concludere, si ripeterà questo tour, come l'abbiamo definito, questa iniziativa, anche sì, nei prossimi anni? La risposta è sì, è un tema del Paese e noi vogliamo affrontarlo in questo modo. E quindi non basta una volta, non bastano prediche, non bastano effetti annuncio per i titoli sui giornali. Bisogna fare delle cose serie, concrete, determinate e di lungo periodo. Noi ringraziamo Sandro Salvati, presidente della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. Buona domenica e buon lavoro, Salvati. Grazie, buona domenica anche a voi e agli ascoltatori. Amici di Radio 24, è tutto per questo appuntamento con Strade e Motori. Vi ricordo che sul nostro sito radio24.it potete trovare tutte le nostre trasmissioni ed approfondire gli argomenti che tocchiamo ogni settimana. Se avete voglia di scriverci, fatelo al nostro indirizzo, che è stradeemotori@radio24.it. Grazie per aver viaggiato con noi, grazie a Filippo Oreggi per averci guidato in regia. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento in compagnia di Radio 24.